Thank you. a festa sera. Il terzo versetto. Quante volte mi sarebbe piaciuto che mia moglie mi facesse un po' prima. Verso cognozza, solo Antonio. Zanzare, state a la bomba atomica. Zanzare, numerosi sempre. Grazie, grazie. Genera mostri, Mazzola, Mazzola, ma la canaglia nera, Rio, Rana, i fiori magnolia spuntavano violette, un segnale di inverno. Rodeo, corsa verticale, verso il mare, di centro, fine con le ginocchia. Oh.